Mardi après-midi, Bardonecchia, Palazzo delle Feste, Centro Congressi, Piazza Valle Tretta. Parlando non di questo progetto. Ok, scusa. Scusami. Bonjour, micro. Oups, tu en perds tout. La strada che tu percorri per scendere a Torino è questa segnata in rosso, ok? Che è, diciamo, quella. Accanto a questa, quindi, ci sarà una praticamente l'ingresso verso questa fascia protetta, questa, diciamo, costruzione. Sì. E da questo punto di vista non ci sono problemi. Chi viene da Torino deve arrivare, ok? Quindi... Beh, però come hai detto, arriva nello stesso modo che questa, ci sarà questa galleria, cioè l'ipotesi sta su questa galleria, su quello che... Ça fait un son, un stylo sur un truc. Comment? Parce qu'un stylo sur un galaxie, ça fait un son. Je ne sais pas. Ah ben, peut-être. Oui. Tanto è una cosa comune, le cose servono per la costanza vera. Non vale. First watch. Watch. Then tiens, regarde, tout est rempli. Scusate. Non, non, je le séquence. Ouais. Je te remonte après, je t'explique comment ça fonctionne. Ah oui. Tiens, je te remonte. Il va me demander de l'ouvrir et... Tu vas dans le truc de l'ordi là et... Il me demande de l'ouvrir directement même. Ouais, bien. Ok, merci. Non lo so. Cioè, le mec dove non c'era, non è bello. Cose del genere. Cose del genere, o no? Sì, però scusa, perché devi mettere le rotaie? No, per illuminare questo parco, per dargli un po' di... Ma di qui? No, non di qui, di questa parte qua. Ma qui te l'ho già detto, che facciamo un sistema... che non so come si faccia a segnare, io l'ho segnato qui. Fai copia e incolla, Ctrl-C, Ctrl-V, qui ti copia automaticamente la continuazione il pezzo di foto che tu hai contornato selezionando. Vedi che ti mette un altro layer. Se tu spegni gli altri che hai sul foglio, ti rimane solo... Ma scusa qua, ritorniamo giù e andiamo alla stazione. Sì. C'est la fin de comment présenter les choses. Pas de micro. Pas de micro.